Buonasera a tutti e tutti, sempre venerdì alle 21:30, Uhuru, suoni e notizie dal continente africano qui su Radio Wombat. Ricordate in streaming quello che state ascoltando adesso, Radio Wombat, anzi wombat.noblogs.org, da cui ci state ascoltando in streaming, eventualmente successivamente ascoltare le repliche oppure i podcast. Per quanto riguarda Uhuru, le repliche sono la domenica alle 10 la mattina. È lunedì alle 14. Questa settimana ci spostiamo in Camerun, Camerun del cui dal punto di vista musicale il genere più sentito, più ascoltato e più conosciuto non solo all'interno del Camerun, ma diciamo a livello globale la Makossa, e il cui autore principale, anche qui quello più conosciuto, è Manu Dibango. Sì, la Makossa, che è un tipo di musica molto popolare nelle aree urbane del Cairo, del Camerun, scusatemi, è simile alla rumba africana, salvo che include un grosso ritmo di bassi, un ritmo forte di bassi e una sezione di corni. La parola Makossa ha origine da un tipo di douala, una danza chiamata Kossa, ed è stata influenzata soprattutto dal jazz, dal highlife e dalla rumba. La Makossa nasce negli anni 50 in Camerun, ma le prime registrazioni vengono fatte solo negli anni 60. Artisti come Eboa Lotin e soprattutto Manu Dibango rendono famoso lo stile fuori dal Camerun e in tutto il mondo. E la Makossa, così come alcuni altri generi africani, ha questa particolarità che è la diffusione, diciamo, gode anche di un mezzo di diffusione veramente, come dire, strano, almeno dal punto di vista da una visione europea, e cioè i bus. Il continente africano, specialmente nella parte subsahariana, cioè quella sotto l'area del Sahel, a pochi chilometraggi da un punto di vista ferroviario, e quindi le persone si spostano prevalentemente, se non esclusivamente, in autobus, e questo anche per lunghe distanze. Quindi uno ci sta sopra, come è successo anche a noi, 10, 12, 24 ore, per andare per esempio da una capitale all'altra. Per i più famosi, più utilizzati di questi autobus sono quelli che vanno da Dar es Salaam in Tanzania a Johannesburg in Sudafrica, oppure il famoso Intercape Liner che va da Windhoek, sempre a Johannesburg in Sudafrica, oppure il Lusaka Gaborone Express, quello che collega la capitale dello Zambia con la capitale del Botswana. E su questi autobus è continuo, insomma, no? La scaletta musicale che dura dal momento in cui partono al momento in cui arrivano, compreso anche spesso anche la notte, vede Makossa, Soukous congolese, a volte Jaita, o comunque derivazioni, diciamo, ballabili o comunque musicali, molto musicali, del jazz sudafricano, marrabenta, insomma, un po' questi generi qui, saltuariamente alternate a canzoni, in particolar modo di Bob Marley, e in particolare quelle Bob Marley, One Love e Zimbabwe, chiaramente. E quindi, appunto, questo è un mezzo di diffusione. Tenete presente che questi bus vengono utilizzati spesso, vengono utilizzati frequentemente, e quando uno ci sale sopra ci sta 10, appunto, come dicevo prima, 10, 15, anche 20 ore, anche perché le strade non è che permettono delle velocità elevate. Quindi si crea anche questa comunione, di questa socialità all'interno del bus, e chi c'ha da mangiare, chi tiene il figlioletto magari anche di un'altra persona per dormire, via dicendo. Tutto ciò con un sottofondo che non è neppure tanto sottofondo di Makossa oppure Soukous, e via dicendo, insomma. E appunto, parlando di Makossa, parliamo chiaramente di Manu di Banco, il personaggio più significativo e il più rappresentativo della Makossa camerunense. E appunto la Makossa, come dicevamo precedentemente, ha origine nella zona di Douala, e Manu di Banco è proprio nato a Douala. E fa parte dell'etnia Yabassi, tant'è che canta spesso con il linguaggio della propria etnia Yabassi. Una delle canzoni più famose di Manu Dibango si intitola anche appunto Camp Yabassi. E ha iniziato anche lui, come tanti, quasi tutti i musicisti sudafricani, fin da piccoletto a suonare. E già, già diciamo, all'inizio degli anni 40 alla scuola del villaggio. E poi è diventato membro di un gruppo di rumba congolese, che sostanzialmente la rumba congolese è quella che poi ha dato origine al soukous congolese. E questo primo gruppo si chiamava African Jazz. Successivamente ha collaborato molti altri musicisti africani, tra cui appunto Fela Kuti, Ladysmith Black Mambazo, King Sanyade, e anche Don Cherry, che pur non essendo africano, comunque un jazzista americano, statunitense, che diciamo molto spesso ha incontrato sonorità africane. Vi facciamo sentire il primo pezzo di questa trasmissione. Si intitola Afrique sans fric, che è un gioco di parole un po' in inglese e un po' in francese. Afrique, nel senso Afrique, Africa, però è scritto e fric, Afrique, sans fric, che sembra anche quello S-Afrique, nel senso sempre di Africa, invece è sans fric. E questo appunto è Afrique sans fric, Manu Dibango. Le fric, les frics, sans fric, Afrique, un bazar. Show. quelle est la musique moi adesso alle iniziative della settimana. Domani 11 marzo al CSA Ernest Emerson di Via di Bellagio, ci sarà la Milonga di Tango Sognato con benefit Mamme No Inceneritore. Domenica 12 marzo invece alla Polveriera ci sarà il Mercato Contadino e soprattutto ci saremo noi di Radio Wombat con materiale, magliette e la presentazione di tutti i loghi con il, poi la premiazione del vincitore. Basta. Il prossimo pezzo è un pezzo di Ebola Tin, anche lui cantante camerunese, nato anche lui a Douala, e non a caso, perché Douala è la seconda città del paese, non è la capitale, però sostanzialmente è la città culturale del Camerun. È morto tra l'altro Ebola Tin circa una decina d'anni fa, abbastanza giovane, insomma. E come quasi tutti i musicisti, come lo sottolineavamo precedentemente, ha iniziato a suonare fin da piccolo, all'età di 8 anni, e successivamente ha sviluppato uno stile musicale riprendendo spunto da quelle erano le musiche tradizionali dell'area di Douala, che si può configurare come progenitore della Makossa. Seppur non essendo appunto Makossa, perché sostanzialmente mancava l'apporto dei fiati in particolar modo, cioè di questa sezione ritmica di fiati, in particolare di sassofoni, che caratterizza per esempio, l'abbiamo sentito precedentemente, le composizioni di Mano di Mango, che in quanto lui stesso è un sassofonista. E comunque continuando a sviluppare questo proprio genere musicale, ha cominciato a incidere già nel 62, si sta parlando di incisioni per la radio camerunense, per la radio nazionale camerunense, con dei mezzi che non solo si sta parlando del 62, quindi con dei mezzi rispetto ai giorni nostri sarebbero considerati ultra obsoleti, ma che oltretutto utilizzati in Camerun erano proprio delle strumentazioni veramente pionieristiche. Vi facciamo ascoltare uno dei pezzi più famosi, diciamo più significativi di Ebola Tin, che si intitola Elimba di Calo. Badika lo ya ka amiruno bunya bo ko ya bebe wenge abu na poi su mele wa mona munyenge mwese de abu na poi ni cha Daninga nyaye ne kumbu adiko lamla mutu asiwe lebe budilu jomani elimbadika loyaka amirulu osito We went there, Kuluku, Bambe, Suidika, Mutangu, Supe, Mungu, Wati, even a lawyer, he knows that we are back. Bambo, Biane, Wekele, Bambe, Sojano, Bimba, Mambo, Mambi, Duma, Duni, Kuku, Obangi, Ponte, Kuala, Mobi, Mambumba. Bana kalo lango ya pasuna yetele mosunga manda we basike mamwate ya babonyolo. Kirimbali kalo lango ya pasuna yetele mosunga matempela lubange mamwate ya babonyolo. Domenica pomeriggio, nell'occasione della premiazione del logo, eccetera, alla polveriera, faremo anche una trasmissione speciale della fuga del gatto, cioè la fuga del wombat per l'occasione, dove tutti coloro che fanno le trasmissioni metteranno un brano sul proprio stile, che fonda il proprio stile e la musica classica. Martedì invece, il 14 marzo, sempre alla polveriera, c'è un primo appuntamento di Hack Feeling, ciclo di film e approfondimenti. Mercoledì 15 invece, sempre alla polveriera, a Pedicipher, cucina hip hop con Daretta e Ganji Killa. Anticipiamo anche che sabato prossimo, cioè no, domani, al Centro Sociale Autogestito Next Emerson ci sarà una serata reggae benefit. La serata reggae benefit, quindi se l'appuntamento è già, vediamo già un appuntamento qui al Centro Sociale già per sabato prossimo. Il prossimo pezzo è un pezzo importante per il testo, per il soggetto che viene trattato nel testo, è una canzone fondamentale, diciamo, per quello che riguarda la cultura musicale africana. È un pezzo scritto e cantato per la prima volta, comunque composto da Peter Gabriel e Biko, che però Manu Dibango l'ha ripreso e nella versione che vi facciamo sentire viene cantato insieme allo stesso Peter Gabriel e Ladies Speak Black Mambazo, e appunto parla della morte, dell'uccisione da parte dei membri della polizia segreta sudafricana dell'epoca dell'apartheid di Steven Biko. Steven Biko è il fondò nel 1970, poi successivamente rimase il leader del Black Consciousness Movement, il movimento per la coscienza nera, probabilmente se non sicuramente il movimento più radicale sorto dall'angoscia e dalla frustrazione del popolo nero sudafricano, che vedeva preclusa dall'apartheid ogni tipo di libertà. Il Black Conscious Movement si articolava in tre organizzazioni: un'associazione politica, il Black People's Convention, una centrale sindacale, Black Allied Workers Union, e una lega studentesca, la South African Student Organization, che è quella seminale, quella da cui la prima di queste tre organizzazioni è stata fondata e da cui poi sorse successivamente Black Conscious Movement. E il 18 agosto 1977 Biko fu arrestato presso un posto di blocco da parte della polizia sudafricana a Port Elizabeth, e durante la prigionia nel carcere fu orrendamente torturato e massacrato di botte, tant'è che subì una grave lesione al cranio, probabilmente a causa di un colpo di stranga, e il 12 settembre di quell'anno morì mentre lo stavano trasferendo in un'altra prigione a Pretoria, probabilmente per cercare o per tentare di insabbiare non tanto la morte quanto il modo con cui era avvenuta. E le fonti ufficiali della polizia, per quanto possono valere, le fonti ufficiali della polizia del periodo apartheid sostennero che il decesso era appunto da attribuirsi a un prolungato sciopero della fame. Il corpo di Biko, che fu reso ai parenti, ai genitori, alla famiglia, dopo lunghe vicissitudini, dopo diversi giorni, non presentava assolutamente diciamo, i sintomi di una morte per fame, mentre invece presentava colpi in tutte le parti del corpo, mutilazioni, vabbè, è inutile continuare le descrizioni di questo tipo di ferite. La morte di Biko, che venne riconosciuta appunto come un eroe, contribuì a fare un simbolo per la popolazione sudafricana, e i funerali furono l'occasione per una grande manifestazione massa a cui parteciparono, nonostante la censura sulla notizia, la censura sulle notizie della morte e il divieto a partecipare addirittura ai funerali, parteciparono migliaia e migliaia di persone. E fu in quella occasione che venne cantata per la prima volta in pubblico Senzenina, che è un pezzo che vi abbiamo fatto sentire in alcune trasmissioni precedenti, quando appunto parlavamo della musica tradizionale sudafricana. E appunto 3 anni dopo Peter Gabriel incise Biko, questo brano, che venne vietato in Sudafrica fino alla fine dell'apartheid. E quindi appunto ci sentiamo questo pezzo, ricordando anche che Biko è nominato anche nella canzone Figli della stessa rabbia, la banda Bassotti, ma anche da Ichina in La gioia del rischio. E September 77, in Port Elizabeth, weather fine, business as usual, sono le prime 3 strofe della canzone, che danno quest'idea della normalità dell'apartheid, della normalità del male sostanzialmente, cioè appunto rievoca la data, il luogo in cui fu ucciso Biko. Port Elizabeth è una città sudafricana abbastanza grande, ma non tra le più grandi, una immensa spiaggia, ma una città abbastanza ordinaria da questo punto di vista. Business as usual, è che l'apartheid è come al solito, cioè privazione di qualsiasi diritto della popolazione nera da parte della minoranza bianca. Appunto, Biko di Manu Dibango, cantata a Manu Dibango insieme a Peter Gabriel, Larry Blick, Black Mambazo, più altri ospiti. Dead. Ricordiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, Twitter, twitter.com/radiowombatfi, Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze e la posta, posta wombat@insiberia.net. Come sempre dal sito potete trovare cliccando su podcast tutte le trasmissioni con i relativi podcast delle puntate che vi siete persi, o se no nella pagina principale tutti i nuovi post che fanno vedere quello che è stato messo o la specificità della trasmissione che potete scegliere di riascoltare o di riscaricare. Ora una notizia che riguarda direttamente il Camerun e che riguarda direttamente internet, che purtroppo la notizia è che da quasi 2 mesi, anche più di 2 mesi, il governo del Camerun ha deliberatamente oscurato internet nella parte anglofona del paese, che è ufficialmente bilingue, dove attualmente è in corso un'ondata di proteste contro le discriminazioni. Ricordiamo che il Camerun, in un periodo prima della Prima Guerra Mondiale, è stato sottoposto a una colonizzazione da parte dei tedeschi, e poi successivamente è stato un periodo tra le due guerre mondiali in cui c'è stato un protettorato britannico, e poi successivamente, in seguito alla spartizione che è nata poco prima della Seconda Guerra Mondiale, passò definitivamente sotto l'egida francese, e quindi la stragrande maggioranza, anzi diciamo la maggioranza delle persone parla francese, ma nel nord del Camerun c'è una minoranza anglofona che appunto sta attualmente protestando contro le discriminazioni verso gli anglofoni sostanzialmente, chi parla inglese. E quello che succede in questa parte di questo paese africano non ha precedenti, sia in via di principio sia per la durata del blocco. In un continente in piena mutazione che assiste a un boom di accessi ad internet, come è l'Africa attualmente, negare l'accesso alla rete per un periodo prolungato significa sostanzialmente emarginare, da un certo punto di vista, sicuramente da un punto di vista economico, ma anche sociale, una parte della popolazione. Ed è questo molto spesso succede in Africa ultimamente, ma anche in diverse altre parti del mondo. Ricordiamo per esempio ultimamente in Turchia, o come è successo durante la rivoluzione, la primavera araba del 2011, l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak oscurò internet per cercare di distruggere i movimenti di protesta, che poi successivamente portò comunque alla sua caduta. Ma quello che fa, diciamo, impressione rispetto a quello che sta succedendo in Camerun è che questa durata si sta prolungando da mesi. E le misure di questo tipo attirano poco l'attenzione da parte dei mass media globali, anche perché accadono in paesi non trattati, diciamo, non mainstream, diciamo, da questo punto di vista. È intervenuto anche Edward Snowden, l'ex consulente della National Security Agency, attualmente rifiutato in Russia proprio perché ha divulgato quelle che erano le mire, cioè i controlli da parte della National Security Agency rispetto all'utilizzo di internet, e ha scritto un Twitter ultimamente proprio a proposito del Camerun: è il futuro della repressione, se non ci opponiamo arriverà anche da noi. E Snowden ha aggiunto anche un hashtag che gira da due mesi sui social network, che è l'hashtag appunto che precede Bring Back Our Internet, che appunto è una forma di protesta tramite la rete per cercare, diciamo, di controbattere, uno dei tanti modi per controbattere a questa censura che sta attuando il governo camerunese rispetto a una parte della popolazione. E il caso del Camerun è emblematico perché le autorità di Yaoundé appunto hanno ordinato un oscuramento selettivo. Il governo sostiene aver preceduto all'oscuramento per lottare contro la diffusione di false informazioni sui social network, e questa è appunto l'addizione che viene periodicamente riproposta quando un governo particolarmente autoritario vuole oscurare la rete. Ma come sempre accade, sono nati sistemi alternativi. Per esempio è stata ideata una nuova attività, quella dei corrieri, che fanno la spola tra le regioni in cui non è possibile accedere a internet e a quelle dove internet funziona, con decine di cellulari sui quali sono preparati dei messaggi poi da successivamente poi inviare. All'arrivo i corrieri devono solo premere il tasto invia e parte la notizia sulla rete. E la crisi affonda le radici nella storia del Camerun, appunto era appunto un'ex colonia tedesca, e che poi successivamente è stata divisa alla fine della prima guerra mondiale, una divisione che sotto certi aspetti ne risente tuttora il paese. E nel contrastare gli effetti di questo tentativo di assimilazione politica e culturale da parte della maggioranza anglofona, Bernard Fonlon, un intellettuale politico camerunense originario della regione costretta a subire questa censura di internet e sostenitore del multiculturalismo camerunense, ha lanciato un grido d'allarme: tra due o tre generazioni saremo tutti francesi. E per loro, diciamo, è una sorta di repressione sostanzialmente, non tanto perché sono contrari alla lingua francese in sé, ma quanto perché il francese per loro rappresenta la lingua del potere. E anche sui social network l'oscuramento di internet del Camerun ha suscitato reazione a campagna di solidarietà, nonostante il silenzio della comunità internazionale sia stato assordante, un silenzio ancora più assordante da parte della Francia, che in realtà dovrebbe reagire, comunque dovrebbe prendere posizione rispetto a questa censura operata dal governo camerunese. Ma tant'è, sappiamo che i paesi precedentemente colonialisti comunque rimangono ancora sotto certi aspetti colonialisti, se non dal punto di vista strettamente politico, ma da quello dal punto di vista commerciale, da quello dal punto di vista sociale, quindi la Francia non fa eccezione. E quindi vabbè, anche noi lanciamo questo hashtag, bring back our internet, e vi facciamo ascoltare proprio anche da certi aspetti per contrastare del nostro piccolo questa cosa qui, un pezzo sempre di Manu Dibango, ma in questo caso appunto un pezzo cantato non in francese ma nella propria lingua. Il pezzo si intitola Minia. Che è passato da poco l'8 marzo, che sia a Firenze che in tutto il mondo ci sono state manifestazioni per appunto l'8 marzo, un commento, cioè un commento, un appunto sul femminismo in Africa, partendo dalla scrittrice afroamericana Alice Walker, che aveva coniato il termine womanism per avanzare l'idea e la necessità di un cambiamento di mentalità che tenesse conto delle difficoltà e delle esperienze specifiche delle donne nere e delle minoranze, mettendo insieme nel nuovo termine coniato femminilità, negritudine e razzismo. È questo desiderio di esprimere la propria dimensione unica e diversa che nel tempo ha fatto nascere movimenti femminili africani in grado di portare il proprio personale contributo all'emancipazione. Un'emancipazione di genere, ma quasi mai avulsa dall'emancipazione politica del post-colonialismo, da cui nasceva già negli anni 70 il post-colonialismo femminista. Un'emancipazione che rivendicava anche la conservazione di propri valori e della cultura indigena, riconoscendosi nell'African womanism. E ancora il black feminism, legato al ruolo delle donne nel movimento dell'indipendenza, del nazionalismo nero, della liberazione gay, ma anche forte contributo dato dai movimenti sociali ed ecologisti. Il femminismo in Africa, con le sue note particolari, è sempre esistito, con le donne guerriere, le regine che lottavano per la giustizia e scacciavano il colonizzatore, filosofe che percorrevano strade originali di pensiero, come ad esempio Taitu Betul, imperatrice di Etiopia, che fu un'astuta diplomatica e giocò un ruolo chiave nel reprimere e respingere i tentativi di colonizzazione da parte dell'Italia, o come Wangari Maathai, keniota, attivista politica, ambientale per i di diritti delle donne, fondatrice del Green Belt Movement, prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la pace nel 2004. E ancora Fumilayo Ramsone Kuti, madre di Fela, quindi nigeriana, attivista dei diritti umani e dei diritti delle donne in Nigeria, voce autorevole per il riconoscimento del diritto di voto per le donne, e questo soltanto per citare alcune delle più famose femministe. Certamente ci sono problemi e temi comuni a tutte le donne del mondo, il patriarcato, la violenza domestica, ma ce ne sono altre, ad esempio mutilazioni genitali o matrimonio delle bambine, per le quali si ha il diritto di lottare con le proprie armi, con le proprie voci e con la propria lingua. Provate a stupirvi di quante donne in Africa siano alla guida dei loro paesi e abbiano ricoperto o coprano tuttora ruoli di primo ministro, presidente, ministro degli esteri, eccetera. Di ricerche sulle donne africane da parte di donne occidentali ne sono state fatte tante, ma queste non tengono conto di quanto il colonialismo e il razzismo abbiano influenzato e cambiato la vita delle donne africane. Non cercate di ingaggiare donne nere nel movimento delle donne sulla base del sessismo degli uomini neri. Fatelo attaccando il razzismo delle bianche. Parlava così Flo Kennedy, afroamericana, carismatica femminista e attivista del Black Power. Femminismi o womanism sono tanti, quante le diversità culturali, ma anche tante quante le donne che scelgono di mettersi in prima linea e rivendicare spazi, diritti, desideri, opportunità per se stesse e per le altre. E il prossimo pezzo è un pezzo di Francis Bevey, anche lui nativo di Douala, cantante, chitarrista e compositore, ma anche artista, scrittore, nonché giornalista camerunense. Tra l'altro, fra le proprie opere, diciamo, librarie, ha scritto non solo poemi e racconti, ma ha anche scritto un saggio sulla musica africana, si intitola Musique d'Afrique, un saggio scritto nel 1969 che, diciamo, molto importante anche perché parlava della musica africana, diciamo, prima della globalizzazione e quindi proprio delle origini della musica africana. E, come musicista ha creato un particolare etno jazz, una musica abbastanza particolare che unisce sonorità jazz e sonorità della musica tradizionale camerunense, ma anche sotto certi aspetti una sorta di musica non tanto ambient, però diciamo delle sonorità che si rifanno a quelle della natura sostanzialmente. Tant'è che appunto il pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Forest Nativity e Francis Baby. Siete sempre all'ascolto di Uru, la trasmissione sulla musica africana, su Radio Wombat, a wombat.noblogs.org, come tutti i venerdì alle 21.30. Ricordiamo che se avete perso una parte della trasmissione potete scaricarla dal sito oppure ascoltare le repliche la domenica mattina alle 10 o il lunedì pomeriggio alle 14. Ricordiamo anche i profili social sempre di Radio Wombat, cioè Twitter, Radio Wombat Fi, Facebook Radio-Wombat-Firenze, l'indirizzo di posta elettronica postawombat@inseberia.net. Il prossimo pezzo sono le notizie dal villaggio. Miango Matumba, nel linguaggio originale dell'etnia Yabasi di Manu Dibangu, è un pezzo particolare che ha poco a che vedere con la Makossa, ma ha molto a che vedere con la musica tradizionale camerunense, in questo caso proprio della zona da cui è nativo Manu Dibangu. Quindi notizie dal villaggio, news from village, Miango Matumba. Thank you. Questo bellissimo brano ci lasciamo, ci ritroviamo venerdì sempre qui su Radio Wombat, sempre alle 21:30 con Uru. Ciao a tutte e tutti.